Oggi ricordiamo il grande Connie Hawkins, comparso esattamente 7 anni fa. The Hawk, leggenda NBA e NBA, ma soprattutto sogno di una notte di mezz'estate non avverarsi per gli amici della F scudata. Buongiorno a tutti. Grazie Paolo, che bella palla 2, nuovamente buongiorno amiche e amici sportivi e non sportivi, parte questo Move to Groove di martedì 8 ottobre, il protagonista, intanto questa palla 2 vi dico subito che la vinciamo comodi, perché il grande Connie Hawkins con braccia lunghissime, un'elevazione incredibile, è stato uno degli atleti più spettacolari e anche più concreti in assoluto per quanto riguarda un periodo di pre-rivoluzione cestistica. Perché sogno proibito di mezza estate? Bella la citazione shakespeariana, Paolo, complimenti, perché lui venne in prova in fortitudo a fine carriera. Non arrivò a giocare mai una partita, ma lui si trovò talmente bene, questo per quanto riguarda gli amanti degli aneddoti, no? Lui si trovò talmente bene il periodo di prova a Bologna che lui rimase tutta la stagione. Non c'erano questi mezzi di comunicazione per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, come si giustificò? No, io ho firmato il contratto, tranquilli, io sto giocando qui Fortitudo Bologna, sono impegnato in un campionato molto importante. In realtà non ha mai giocato, semplicemente era affascinato dalle scorribande felsine e tra trattorie e belle compagnie che non mancavano assolutamente e non mancano nella nostra città, per cui lui agli Stati Uniti ha detto: io sto qui, gioco qui. In realtà non ha mai giocato neanche una partita nella Fortitudo Bologna, però ne resta un ricordo importante, e penso anche per Connie Hawkins stesso, atleta che poteva coprire tutti i ruoli per quanto riguarda la parte di ala piccola, ala grande e anche centro, visto le sue doti atletiche non indifferenti, la capacità a rimbalzo, tendenzialmente per me un 4, ma visto la mano educata in certe situazioni è stato sfruttato come ala piccola, cioè giocando fronte a canestro. Un grandissimo giocatore, lo stesso Julius Irving dirà: beh, per certe cose mi sono ispirato, è stato un po' il mio idolo Connie Hawkins. Accidenti, sarà importante per i Phoenix Suns, arriverà a Los Angeles, per quanto riguarda l'inizio scelto nella ABA dai Pittsburgh Pipers, dove avrà una stagione incredibile, chiude come miglior realizzatore oltre a essere, mi pare, il rookie of the year per la ABA, tanti rimbalzi, una media di 28 punti a partita. Un giocatore formidabile. Che bella palla 2. Beh, Willy, ci credi o no, ma molta gente pensa che sia una leggenda ancora tutto questo. Invece, signori, se potete conoscere il grande Andrea Tattini, amico del Move to Groove, sarà ben lieto di spiegarvi un paio di aneddoti di Connie Hawkins sotto le due torri. Loro erano grandi amici, erano sempre insieme. Mandiamo un abbraccio alzato ad Andrea Tattini, ovviamente altra compagnia importante, sicuramente un cicerone non indifferente per Connie Hawkins. Il protagonista di oggi, facendo un piccolo passo indietro, ma grande per quanto riguarda la presenza non solo in campo, ma anche fuori dal campo, grande filantropo, noto per le sue azioni di beneficenza, gli sono valse due riconoscenze da parte del premio John Walter Kennedy nel 2001 e nel 2009. Stiamo parlando di Dikembe Mutombo, recentemente scomparso, esattamente scompare in Georgia, ad Atlanta il 30 settembre 2024. Nel 2022 purtroppo viene diagnosticato a Dikembe un brutto male alla testa. C'è stato un peggioramento per questo gigante buonissimo in tutti i sensi e scompare di recente. Resta sempre e comunque, oltre che il ricordo cestistico, un immenso ricordo umano. 2,18 m, nasce nello Zaire all'epoca, sarà poi la Repubblica Democratica del Congo, a Kinshasa, che ne è la capitale. Per quali caratteristiche diventa importante? Per un atteggiamento difensivo molto intimidatorio, anche in maniera un po' così, chiamiamola goliardica, concludeva le sue azioni difensive, le famose stoppate. Vincerà le classifiche delle stoppate per 4 anni nella NBA e per intimidire ulteriormente l'avversario, dopo la stoppata agitava in senso di negazione davanti allo sventurato e malcapitato attaccante questo dito indice dicendo: no, not in my office, qua non lo puoi fare, qui comando io. NBA alle spalle di Hakeem Olajuwon, le sue stoppate con annesso dito che fa no no no no erano diventate talmente un cult che ci girarono anche, è vero, delle pubblicità in America, e poi col suo classico vozzone da baritono: man does not fly in the house of Mutombo. Michael Jordan ci rimase male. Michael Jordan e Mutombo si prendevano in giro, per così dire, non so fino a che punto amichevolmente, e ricordo questo motivo di rivalsa che ebbe Jordan contro Dikembe Mutombo. Lo chiamò, richiamò la sua attenzione: hey Mutombo, this is for you, e poi chiuse gli occhi sulla linea del tiro libero e realizzò un tiro libero nella sua idea alla faccia di Mutombo tenendo gli occhi chiusi. Hey Mutombo, this is for you. Ma come? Chiude gli occhi e realizza un tiro libero. Michael Jordan, che non la prendeva tanto bene quando veniva limitato o ostacolato dal grandissimo gigante africano. Studente talentuoso, lui molto impegnato anche negli studi, appassionato di sport, gioca addirittura a calcio. Il padre dice: beh, insomma, hai delle doti fisiche, stai crescendo a dismisura, prova il basket. Si avvicina al basket con gli stessi percorsi dalla Nigeria a Hakeem Olajuwon, però stiamo parlando di Dikembe Mutombo. E allo stesso modo, una volta arrivato negli Stati Uniti d'America, grazie a questa borsa di studio, subito Georgetown, un'importante università, importantissimo college, già ne è uscito il grande Patrick Ewing, viene all'epoca, siamo all'inizio degli anni 90, lui verrà scelto nella stagione 90-91, verrà affiancato ad Alonzo Mourning. Oh, lì non si passa, tra Mutombo e Mourning non si passa assolutamente. Mi pare che abbia portato alla vittoria del campionato del college di quella stagione in finale contro University Nevada Las Vegas di Larry Johnson, altro giocatore molto importante che diventerà prima scelta all'uscita dei draft di quella stagione. Dikembe Mutombo sarà quarta scelta assoluta per i Denver Nuggets. L'importanza della stoppata. La stoppata amata e odiata. La stoppata riportata nella nostra quotidianità come facciamo nel Mood Groove. A cosa può essere paragonata? Beh, può essere paragonata a quando quando fermiamo qualcuno che ha molta sicumera nel riportare le proprie argomentazioni, noi con una frase secca e immediata lo smentiamo pubblicamente. Ecco, quella è una stoppata riportata al momento di vita e di incontro-scontro che abbiamo un po' tutti i giorni nel mondo del lavoro, nel mondo del tempo libero, insomma, non necessariamente sul parquet. Si dice infatti: oh, l'hai proprio stoppato per bene questa volta. E in effetti il significato di stoppata idealmente può essere riportato a tutto ciò. La stoppata per i non preparatissimi del Moved Groove è appunto il fermare l'avversario nella parte terminale dell'esecuzione di tiro. Quando la palla sta per uscire dalla mano dell'attaccante, il difensore gli impone lo stop, fermandola e respingendola in quel preciso momento. Forte nel fare le stoppate che deciso che il ditone doveva agitarlo verso la folla e non davanti all'avversario che ha subito la stoppata, in quanto iniziarono a piovere poi dei tecnici per toning. Per chi non lo sapesse, il toning significa non sbeffeggiare il tuo avversario perché gli hai fatto una giocata davanti alla sua faccia. La scelta assoluta dei Denver Nuggets draft 91, pensavano di aver trovato il franchise player a metà, perché oltre alle clamorose doti difensive che erano veramente fuori dal comune, partite chiuse anche con 12-13 stoppate e 25-26 rimbalzi portati a casa, ecco, quando bisognava andare poi nella fase offensiva, il buon deck, ecco, non si è poi evoluto più di tanto. Molto scolastico, molto legnoso, aveva un gran ghiancione. Sì, poi ci fermiamo poi lì. Ecco, diciamo che nel periodo fine 80, ma soprattutto primi 90 per lui, dove i grandi lunghi in NBA ce n'erano e anche buoni, vedi Ewing, Hakeem, Robinson, diciamo che rimase sempre un gradino indietro rispetto a loro. E sinceramente, facendo un paragone con un altro grande lungo molto sfortunato, come poteva essere quello di Cleveland, Brad Daugherty, ecco, io non so se poi prenderei uno come Mutombo o uno come Dogarty, eh? Cioè, la scelta in sé è un po' difficile, se prendo anche Brad Dogarty, diciamo che non ho sbagliato più di tanto, eh. Beh, hai citato uno degli ultimi lunghi veramente importanti. Io sono un tifoso di Brad Dogarty, bisogna vedere un po', certo, si dice, troviamo le necessità della squadra. Io sceglierei Brad Dogarty soprattutto per le mani, ecco, per la capacità di gestire in maniera totale la fase anche offensiva. Certo, più soft, anzi era criticato, chiamato soft, mollaccione Brad Dogarty. Io sono un esteta della pallacanestro in fase offensiva, un vero piacere per gli occhi, grande Brad Dogarty, ma ricordando anche la potenza fisica, l'imponenza fisica di Dikembe Mutombo. Certo, per Denver si cercava l'uomo franchigia, si cercava il centro che potesse ostacolare i nomi che ha appena citato Paolo, che tra l'altro riceve i complimenti anche da Paolo Onofri per la palla 2 con il Falco, un sogno, bravo Paolo Onofri, mi unisco anch'io alle parole di Lino. E per quanto riguarda invece Dikembe Mutombo, uno stoppatore, una presenza difensiva, un grande rimbalzista, un uomo d'area, ecco, poi non ricordo un movimento offensivo che contraddistinguesse questo grandissimo giocatore. Più importante probabilmente il lavoro eseguito al di fuori del parquet, un vero filantropo per la costruzione di scuole e ospedali in un'Africa veramente devastata. Mette a disposizione dei suoi fratelli più sfortunati un ingaggio da lui percepito che gran parte andava appunto per costruire case di accoglienza, ospedali, scuole, istituzioni che hanno riconosciuto in Dikembe Mutombo, oltre che un grande giocatore, un grandissimo uomo. È un membro, e non solamente per i 218 centimetri, è stato un membro del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame dal 2015, inserito in questa arca della gloria. Giocherà due finali in NBA, però, giocherà contro Shaquille O'Neal, cioè giocherà contro i Lakers, e non andò bene, prese 4-1 in finale, nella serie finale. Avrà un'altra possibilità, mi pare, correggimi Paolo se mi sbaglio, con i New Jersey Nets, ma si scontrò con Tim Duncan e David Robinson, la serie terminò 4-2 per il grande Dikembe Mutombo. Comunque, due finali NBA. Fuori dal campo, a livello umanitario, ecco, lui è veramente il numero uno, un ambasciatore, un filantropo, un uomo che ha dato sangue, sudore e lacrime per la sua Africa, tirando su a sue spese, di tasca sua, strade, ospedali, scuole. Ricordiamo l'ospedale in Congo intitolato alla mamma passata tanto tempo fa. Ecco, veramente un uomo di altri tempi, veramente con il cuore più buono e più grande che si possa avere. indubbiamente nel parquet celeste ora Dikembe Mutombo sta cercando anche di stoppare l'aureola di santi, cherubini, angeli, arcangeli, capace di arrivare a fermare anche, senza voler essere blasfemi, delle altezze assolutamente importanti per un grande uomo, per un grande atleta. Possa riposare in pace Dikembe Mutombo. Bango, Dicalo, il brano che stiamo ascoltando da questo potente afro-funk, Manu Dibango. Stoppata, odiata, amata, stoppata, definita ai tempi in cui mi avvicinai alla pallacanestro, la stuba, poi verrà chiamata orba, ti ho dato un'orba, perché? Perché in quel momento improvvisamente non vedi più la luce e quindi così definita in maniera un po' immediata. Sei stato orbato. Perché amata e odiata? Perché gli allenatori non invitano a questo gesto difensivo, preferiscono che il difensore riceva uno sfondamento. Certamente la stoppata, secondo me invece, è importante, innanzitutto per intimidire e poi, certo, un atleta che riporta 4 stoppate ha fermato 4 tiri, ma un atleta come Mutombo dava importanza anche per quanto riguarda sporcare i tiri, infastidire anche solo con una presenza così immensa l'attaccante, era già molto importante per il compendio difensivo della squadra, Nel nostro vivere quotidiano è stoppare qualcuno che è pieno di sicumera, che certamente propone, sicuro, attacca molte volte con delle argomentazioni, secondo lui, certe. Ecco, arriva un interlocutore che con poche parole lo zittisce in maniera che non dà adito a risposte. Ecco, la stoppata, secondo me, nel nostro quotidiano potrebbe essere questo. Infatti, si dice: uè, t'ha stoppato per bene, eh? Ehi. Why don't you sit down? I can't sit down. Sit down, I told you. I can't sit down. Go away, don't bother me. I can't sit down. Cause I just got to heaven and I can't sit down. Who's that yonder dressed in white? I just got to heaven and I can't sit down. Looks like the children of the Israelites. I just got to heaven and I can't sit down. Who's that yonder dressed in red? I just got to heaven and I can't sit down. It looks like the children that Moses led. I just got to heaven and I can't sit down. Why don't you sit down? I can't sit down. Go away, don't bother me. I can't sit down. Cause I just got to heaven and I can't sit down. I like that. Michael Jordan gli schiacciò in faccia dopo tante stoppate prese e fece il gesto del dito, comunque 20 centimetri in più di Michael Jordan. È vero, Michael Jordan in risposta alle tante negazioni prese da Mutombo, uno contro uno, evita l'avversario diretto, Mutombo arriva in aiuto con perfetto gesto difensivo, Michael Jordan va oltre e schiaccia in faccia a Mutombo. Cosa fa? A sua volta risponde e dice: no, questa volta non mi hai stoppato. Mutombo partita All-Star con Michael Jordan, All-Star Game, ma no, gara schiacciate, mi hai stoppato William, io ero un buon stoppatore, lo ammetto, sì, pessimo, oddio pessimo, adesso non esageriamo, a me 30 punti in faccia non me li ha mai fatti nessuno a nessun livello, però a volte bisogna trovare pur dei difetti, e per me è il pessimo difensore molte volte è il difetto che viene trovato quando si vuol criticare per forza. Come quando invece si vuole dare un complimento e un incoraggiamento anche a un atleta non troppo talentuoso, si dice no, però dai, è bravo in difesa. Faccio un esempio, Bill Hensley, che no, però difende bene, bravo, ma come? Pace a Mutombo, che era amico di Jordan, sì, indubbiamente, quello era un siparietto, sapete che l'NBA diventa poi da lì in avanti una spettacolarizzazione continua. Concludiamo con la stoppata perfetta come la intendono gli allenatori, allora vediamo se anche Paolo è d'accordo con me. Come viene accettata dall'allenatore severo la stoppata? Esattamente come il caso che ho appena citato in precedenza. Un esterno viene battuto in uno contro uno, arriva l'aiuto del lungo, in quel caso la stoppata è approvata anche dal più severo e difensivista degli allenatori. Ma impostare la difesa in uno contro uno, questo era il mio difetto, unicamente sulla stoppata è rischioso. Perché è rischioso? Perché poi a sbracciare un arbitro, magari, qui richiamo il nostro amico Franco Stanghellini, che giustamente ha detto una cosa importantissima alla puntata precedente. Ricordati che l'arbitro punisce anche solo il gesto. E quindi il gesto della stoppata è un gesto molto evidente e rischia il fallo, rischia l'infrazione. Ciò non toglie che sia un'intimidazione importante, secondo solo ad Hakeem Olajuwon di Kembe Mutombo. L'NBA con Philadelphia protagonista assoluto e con i Nets già un po' più gregario, ma incredibilmente con Philly ha fatto vedere una vena realizzativa incredibile in quella finale, addirittura quasi meglio delle sue doti difensive. Purtroppo il suo rivale era un certo Shaquille O'Neal, che in quel periodo avrebbe messo avversario palla dentro al canestro di qualsiasi epoca. Quel triennio Shaq era veramente inarrestabile, il più dominante di tutti i tempi, l'ha fatto vedere lui. Per 3 anni si è messo l'NBA in tasca e ha detto: chi arriva secondo, io invece vinco. Esatto, Willy, gli allenatori insegnano sempre che la stoppata deve essere l'ultimo dei rimedi difensivi, però avere il cosiddetto spauracchio al centro dell'area, che anche solo con la presenza non fa tirare gli avversari in un modo corretto, pulito, con la paura di essere intercettati al tiro, ecco, inizia già comunque a fare una bella differenza su una partita di basket. Anche secondo me. Stanghellini è rimasto indietro, scrive Lino. Orse non amputi un arto, non fischiano. Sì, ne abbiamo parlato con Franco comunque nella puntata precedente. Siamo giunti al termine di questo Move to Groove, tributo a Dikembe Mutombo, e ne abbiamo anche dato un'opportunità per un aspetto difensivo nella pallacanestro che può essere riportato nella nostra quotidianità, nella conversazione, nel confronto, lo stoppare. che possa riposare in pace di Kembe Mutombo, la continuità che diamo al Breakfast Club e con un last minute imminente, ricordando che ovviamente ogni martedì è vera grande pallacanestro sui 103.1. And we ain't got time, no time, oh time to be saved. Andiamo in pubblicità, poi lanciamo il last minute. Lino mi ha fatto sorridere questo tuo messaggio. Stanghelini è rimasto indietro. No, ma guarda che Franco ha detto cose molto interessanti. Poi certo che si scherza e quando possiamo dare una stoppata a un arbitro lo facciamo sempre volentieri. Grazie per l'attenzione, grazie Lino per motivi di conversazione che porti sempre al Move to Groove e non solo. A tra poco con il last minute di oggi. Say oh child, I never had it so good. I wanna say thank you for the start. Cause deep in my soul, I know you did all that you could. I'm just a part of your dream, this I know, but I'll do whatever possible.